Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. This is what our new future will look like. I'm going to lower your taxes very, very substantially. I'm going to get rid of massive amounts of unnecessary regulation. Quello che avete sentito è il presidente americano Donald Trump che annuncia un fantastico taglio alle tasse, lo stiamo ancora aspettando. In realtà Trump in questi giorni, in queste ore è sotto attacco perché si è riacceso, come avete letto dalle cronache proprio degli ultimi giorni, il famoso Russiagate, che è uno dei talloni d'Achille della sua presidenza. E questo tema ritorna proprio in uno dei libri che adesso vi presento questa sera, che riguarda proprio Donald Trump. L'autore è un grande esperto di politica internazionale come Sergio Romano, che ha scritto Trump e la fine dell'American Dream, pubblicato da Longanesi, 122 pagine, 18 euro. Il libro è molto agile, risponde a domande che tutti ci poniamo di frequente, a partire da quella più ovvia: come sia stato possibile che Trump, nonostante le attese e la certezza che avrebbe perso le elezioni, sia invece stato eletto. E si colloca il libro nell'ambito di una riflessione cara a Sergio Romano, che già da diversi anni sta scrivendo che gli USA hanno imboccato la via di un declino di cui Trump appunto sarebbe un ulteriore eloquente segnale. È un declino che lancia anche una sfida all'Europa, la quale Romano dedica un po' scritto, che si conclude con parole eloquenti. L'apparizione di Trump sulla scena politica americana dimostra che le due sponde dell'Atlantico si sono allontanate e che l'Europa oggi deve far da sé. Il libro affronta le ragioni del successo di Trump e poi le questioni che gli ha dovuto affrontare o che ha dovuto rimandare e i problemi che incombono sulla sua presidenza a partire dal Russiagate. E di questo adesso parliamo con l'autore. Buonasera Sergio Romano. Buonasera. Sergio Romano, il suo libro comincia con un'analisi sull'impopolarità nella quale si è conclusa la presidenza di Obama. Come mai si è manifestato questo fenomeno e soprattutto come mai in pochi avevano parlato di questa impopolarità crescente? Direi ancora meno in Europa, che era sempre molto fanatica di Obama. L'opposizione di Obama, che poi ha confluito in un certo senso tra coloro che sostenevano Trump, non si esprime come si esprime l'American Liberal. Noi leggiamo i giornali dell'American Liberal, non abbiamo quasi mai l'occasione di leggere la stampa provinciale, dove si manifesta invece e dove si è manifestato un forte dissenso, una forte ostilità nei confronti di Barack Obama. Però qualche segnale l'avevamo ricevuto. Ricorda quando per alcuni mesi noi abbiamo continuamente letto sui giornali notizie relative a poliziotti che fermavano spesso di notte o nei quartieri più poveri della città un ragazzo nero e lo uccidevano perché aveva alzato la mano o aveva dato l'impressione che volesse aprire il cruscotto e Dio sa cosa c'era nel cruscotto. Un giornale inglese, il Guardian, fece persino la conta, ogni giorno pubblicava il numero delle vittime. Però questo fatto, cioè il fatto che i giornali liberal non davano conto di questo sentimento o non l'avevano capito, vuol dire che effettivamente i pregiudizi liberal erano molto forti, li costringeva a non capire come andasse il mondo, come andasse la realtà. Certo, erano convinti di rappresentare l'America, anche perché una parte importante del Partito Repubblicano, non dimentichiamolo, che ha dato prova di, come dire, di saggezza, di vecchia saggezza americana, il bipartisanship, cioè la collaborazione fra le due forze opposte, è sempre stata, per così dire, nella cultura degli Stati Uniti. E allora naturalmente ce ne siamo accorti meno, ma i segnali c'erano, i sintomi esistevano. E lei analizza poi le ragioni per le quali Trump ha vinto, una delle quali è stata la scelta sbagliata sulla Clinton. Come mai si è fatto questo errore? Ma io credo che i democratici, o piuttosto molti democratici, ne fossero perfettamente consapevoli, ma la Clinton era forte, era molto forte, perché il marito aveva conservato la macchina del Partito Democratico. E non bisogna dimenticare che aveva comunque avuto nei decenni precedenti delle posizioni importanti. Fu chiaro fin dall'inizio che vi erano nella sua come dire, professionalità politica delle macchie, per esempio quelle relazioni, quei briefing che faceva alle banche a porte chiuse, pagati lautamente, certamente non corrispondevano alla rappresentazione dell'uomo politico più onesto e probo. E poi non bisogna dimenticare che aveva avuto un curioso scandalo all'interno del Dipartimento di Stato, quando rifiutò di servirsi del server per la posta elettronica del Dipartimento di Stato e volle scegliere il proprio, rasentò, o come dire, la violazione del segreto di Stato. Lei sintetizza la nuova geografia elettorale, quella che ha portato e spiega la vittoria di Trump, con una frase: gli stati in cui Trump ha vinto sono tutti, per un verso o per l'altro, vittime della globalizzazione. E quindi è così radicato il sentimento anti-globalizzazione negli Stati Uniti, che pure è considerato il bastione del libero commercio? Ancora una volta non ce ne siamo accorti, perché quell'America parla meno, si esprime meno e meno articolata, come si direbbe con una parola di origine inglese in questo caso. Ma non c'è dubbio che la globalizzazione ha colpito le vecchie città industriali, quelle che lavoravano nelle città di media grandezza, soprattutto con il carbone, e che naturalmente avevano, grazie alla globalizzazione o per colpa della globalizzazione, o addirittura perduto il loro mercato, o si erano trasferiti altrove, là dove il costo del lavoro era minore e soprattutto la pressione fiscale meno importante. Ed è quell'America che ha votato per Trump. Se lei guarda la carta elettorale degli Stati Uniti, si accorge che contro Trump, vale a dire per il Partito Democratico, pur inghiottendo la Hillary Clinton, hanno votato le due coste, mentre la grande massa centrale, con l'eccezione di Chicago, ha votato per Trump. E questo, secondo lei, può avere influenza sulle future scelte del Partito Democratico? Il Partito Democratico naturalmente in questo momento è alla ricerca di un leader. Questo leader non può essere più scelto nella macchina, deve in qualche modo venire da fuori. La macchina, vale a dire l'establishment, non va di moda da nessuna parte in Occidente in questi ultimi decenni, e contro la macchina si sono creati tutti i partiti populisti. In un certo senso Trump è il populista degli Stati Uniti. Esaminando quelle che possono essere le conseguenze delle elezioni di Trump, lei parla, soprattutto a livello internazionale, lei parla di una faglia americana, e noi sappiamo che quando le faglie si muovono vengono i terremoti. Che forme può assumere a livello appunto internazionale il terremoto Trump? Ma io ho parlato di guerra civile, pur sapendo che l'espressione era certamente piuttosto esagerata, per così dire, mi auguro di essermi sbagliato. Se guerra civile, comunque per certi aspetti quella che si combatte è una guerra civile fredda. Ma noi abbiamo assistito, nel momento in cui è stato eletto Trump, a una reazione indignata dell'America liberal. Abbiamo assistito a giornali che un tempo erano molto, se non neutrali, certamente davano prova di grande obiettività, li abbiamo visti schierarsi contro Trump con una militanza che francamente mi ha piuttosto sorpreso. Parlo del New York Times, del Boston Globe, del New Yorker, della New York Review of Books, insomma tutto quello che noi consideravamo il meglio degli Stati Uniti è sceso in campo in modo piuttosto bellicoso, e questo è un dato certamente non positivo a mio avviso. E poi abbiamo visto partire subito la campagna per l'impeachment, vale a dire per l'incriminazione prevista naturalmente dalla Costituzione degli Stati Uniti, anche se la prassi della procedura dell'impeachment è complicata e non ha mai dato risultati positivi, ma si va alla caccia delle ragioni per cui Trump possa essere tradotto in giudizio, di cui per esempio l'importanza che nella stampa americana ha assunto il suo rapporto con Putin e l'intrusione, la supposta intrusione della Russia nella campagna elettorale di Trump. Lei infatti parla in un capitolo del Russia Gate. È stato determinante questo contributo, questo intervento della Russia, a suo parere? Certamente no, a parte il fatto che non vedo molti innocenti nel campo dei servizi e naturalmente le nuove tecnologie permettono di fare cose e di provocare tentazioni a cui pochi servizi, ho l'impressione, sono capaci di resistere. L'intrusione è molto possibile che ci siano state per almeno due ragioni. Prima di tutto perché Hillary Clinton aveva a Mosca una pessima stampa, non era amata da Putin e del resto lei non amava la Russia e credo che questo sia stato certamente un fattore importante. E poi naturalmente la Russia è ancora per una parte importante della società politica americana il nemico. C'era un politologo sovietico che si chiamava Arbatov, che disse a un certo punto al suo collega: cosa farete quando avrete perso il nemico? Beh, la risposta è che non l'hanno perso, la NATO vuole ancora avere un nemico. Se Trump dovesse superare queste sfide, se dovesse superare l'eventuale impeachment, eccetera, le faccio una domanda che nel suo libro non c'è. Secondo lei si corre il rischio che possa essere rieletto? Beh, a questo punto naturalmente molto dipende da quello che farà di qui ad allora. E vede, poi tutti noi quando giudichiamo di queste cose, anche se facciamo uno sforzo di neutralità, di distacco, inevitabilmente finiamo per sperare in quello che desideriamo. Allora io tutto sommato trovo che questa è un'occasione per l'Europa, quindi il giorno in cui fosse rieletto non ne sarei dispiaciuto, mi convincerebbe che non avevo torto pensando a un progressivo declino degli Stati Uniti e alla necessità per l'Europa di riempire un vuoto lasciato da questa carenza di egemonia americana. E Romano cita nel libro un titolo recente di Massimo Teodori, che è uno studioso degli Stati Uniti e ex parlamentare radicale, Ossessioni americane, storia del lato oscuro degli Stati Uniti, pubblicato da Marsilio, 160 pagine, 15 euro, che anticipa evidentemente molti dei temi trattati poi da Romano. Il prologo, per esempio, si intitola Le paure d'America votano Trump, i cui istinti, scrive l'autore, affondano le radici nel sottofondo della nazione americana, che in alcuni periodi ha messo in ombra la democrazia liberale per far emergere l'altra faccia della nazione carica di paure e ossessioni. Queste ossessioni, queste paure, hanno avuto riflessi e conseguenze politiche che qui Teodori esamina. La più nota probabilmente il Ku Klux Klan, ma ce ne sono tante altre che l'autore raggruppa in quattro capitoli dedicati ai nativisti, ai populisti, agli isolazionisti e gli autoritari. E di Trump segnalo la biografia scritta da Gennaro San Giuliano, vice direttore del TG1, Trump, vita di un presidente contro tutti, pubblicato da Mondadori, 288 pagine, 22 euro, che colloca l'elezione di Trump all'interno di un profondo sommovimento nell'opinione pubblica occidentale. E con questo ci interrompiamo per un attimo e ci sentiamo fra pochi istanti. Un libro tira l'altro. Abbiamo dunque parlato del Russia Gate e su questo tema, che è tornato di esplosiva attualità in queste ore e che fa crescere anche le preoccupazioni che la Russia possa influenzare le elezioni nei paesi occidentali, tra l'altro anche quelle italiane della prossima primavera. Su questo tema, dicevo, molto attuale, segnalo il libro di Luke Herding, che è un giornalista del Guardian, che è stato per alcuni anni inviato a Mosca del suo giornale, ma Mosca lo espulse, anzi Herding diventò il primo giornalista cacciato dalla Russia dai tempi della Guerra Fredda. Il suo libro si chiama Collusion, come la Russia ha aiutato Trump a conquistare la Casa Bianca, pubblicato da Mondadori, 324 pagine, 20 euro, ed è tradotto da Sara Crimi e Laura Tasso. Questo libro è scritto, come fanno bene gli anglosassoni, con taglio da reporter, che parte da un colloquio con un'oscura figura all'inizio, oscura, Chris Steele, che dopo aver lavorato per i servizi di sicurezza britannici si è messo in proprio e che è il personaggio che svelò appunto i dossier raccolti dai russi su Trump. Il libro si legge in certi momenti quasi come un thriller, ma è autentico, soprattutto dimostra che l'intervento russo alla fine fu abbastanza inutile. Putin aveva appoggiato Trump perché questi poi revocasse l'embargo della Russia, cosa che non è avvenuta, e quindi, scrive l'autore, L'intervento nelle elezioni presidenziali americane era stato un trionfo tattico e un disastro strategico per la Russia. Se non fosse stato per il dossier di Steele, Trump avrebbe abrogato le sanzioni e sancito una nuova alleanza con la Russia, o almeno così credeva Steele. Ma la questione è tutt'altro che chiusa ed è destinata, come abbiamo sentito anche Sergio Romano, a far continuare a lungo l'agonia di Trump. Un presidente molto più popolare, anzi decisamente mitizzato, di Trump è Abramo Lincoln, che troviamo nel libro di George Saunders, che è uno scrittore e saggista americano noto soprattutto per i suoi racconti, che adesso si misura con il suo primo romanzo intitolato Lincoln nel Bardo. È pubblicato a Feltrinelli, 348 pagine, tradotto da Cristiana Mennella. Il bardo è quella condizione che nella spiritualità buddista tibetana indica la situazione delle anime che sono morte ma non si sono ancora reincarnate. In questa condizione si trova un figlio di Lincoln, morto mentre egli era a Casa Bianca, giovanissimo, aveva pochi anni, e che appunto viene seppellito in un cimitero e viene frequentemente visitato dal papà. Ma l'anima appunto è nel bardo, l'anima continua a sentire, a vedere, a parlare, viene assistito da tre anime in particolare che gli sono vicine e ascolta anche molte confessioni del padre, la cui figura ricorre frequentemente nel libro e che dà voce anche alle proprie angosce sulla crisi politica e naturalmente sulla guerra civile che è in corso proprio in quegli anni. Il libro è costruito con una ricchissima dotazione di citazioni, ce ne sono diverse centinaia, che raffigurano una sorta di Spoon River dei nostri tempi, perché molte di queste citazioni danno vita a personaggi e a situazioni dell'epoca, e per questa ragione il libro di Saunders, che ripeto è una primizia in quanto è il primo romanzo che lo scrittore americano ha presentato, si è rivelato un grande successo negli Stati Uniti. I'm from New York. I'm trying to find my sister. I have reason to believe that she's here in San Francisco with a... Restiamo negli Stati Uniti, ma cambiamo argomento. Questa è la voce di Mary Astor, che fu un'attrice famosa che vinse l'Oscar nel 1942, e queste battute sono tratte dal film Falcone Maltese, uno dei suoi capolavori con Humphrey Bogart. Mary Astor, prima di diventare famosissima, fu al centro di uno scandalo che ripropone anche un argomento di cui si è parlato molto in queste settimane, cioè quello delle bollenti attività, in molti casi purtroppo subite, che dominavano o dominano o hanno dominato il mondo dello spettacolo. Nel libro di cui vi parlo non ci sono violenze, ma un diario che rischia di nuovo di rimettere in discussione il modello hollywoodiano. E il libro è appunto I diari bollenti di Mary Astor, il grande scandalo a luci rosse del 1936, è pubblicato da Adelphi, 170 pagine, 20 euro, tradotto da Matteo Codignola. Delizioso è l'avvio della storia. Siamo nel 1965, l'autore è ancora uno squattrinato illustratore, cambia casa, decide di dare una ripulita all'appartamento e quindi di strappare il brutto linoleum che copriva il pavimento, e da questo strappo emerge una serie di giornali che erano stati messi per isolare il pavimento dal linoleum, delle pagine molto leggibili di vecchi giornali, soprattutto due, il Daily News e il Daily Mirror, appunto dell'anno fatale del 1936, che raccontano con cronache minuziose, titoloni e effetti in prima pagina una vicenda giudiziaria che riguardava quella che allora era poco più che un'attricetta, Mary Astor, che avrebbe vinto poi, che sarebbe poi diventata molto famosa, avrebbe addirittura vinto l'Oscar nel 1942. La Astor era stata trascinata in tribunale dal marito, dal quale voleva separarsi. L'uomo aveva trovato il diario della moglie, nel quale questa non soltanto annotava gli incontri sentimentali, ma classificava un po' con dei voti anche le performance degli amanti più o meno occasionali. Il caso naturalmente era stato ampiamente montato per farne il simbolo anche della depravazione di Hollywood. Sorel, da quella scoperta del 1965, si appassiona alla vicenda, ci giochicchia, come scrive lui, per farne un libro tutta la vita, per quasi mezzo secolo, finché si decide appunto addirittura a ricorrere a una specie di seduta spiritica propiziata da un monsignore per parlare qualche minuto con l'attrice che nel frattempo era morta nel 1987. E infatti questo libro di Sorel è uscito nel 2016 ed è un capolavoro di grazia e umorismo, anche grazie alle straordinarie tavole con le quali lo stesso Sorel accompagna la vicenda che riguarda lo scandalo, ma anche tutto il mondo di Hollywood, la vita della Astor, grande stella del cinema divenuta poi, e naturalmente quella dello stesso autore, che così parla della sua impresa condotta all'età di 87 anni. Per mezzo secolo mi sono ripetuto che prima o poi avrei scritto un libro sul processo Astor, ma ogni volta qualcosa di improrogabile ha finito per impedirmelo. Poi un bel giorno quotidiani e riviste hanno deciso che delle illustrazioni potevano tranquillamente fare a meno, nella maggior parte dei casi. Risultato? Adesso avrei avuto tutto il tempo che voglio. Ma sono anche diventato un vecchietto. Quando ho iniziato a scrivere questo libro, ero già più anziano di gran parte delle persone che compaiono sui necrologi del Times, il che spiega perché potrebbe capitarvi di trovare questi disegni un tantino bislacchi. Un fugace accenno a Marx nel libro di Sorel mi consente di ricordare che sempre Adelphi ne ripropone l'autobiografia, ma attenzione, il Marx di cui si parla è questo. Oh, why can't we break away from all this? Just you and I, and lodge with my fleas in the hills. Naturalmente il grande comico vissuto tra il 1890 e il 1977 che scrisse nel 1959 Il Groucho e io, tradotto da Franco Salvatorelli, 306 pagine, 12 euro, un libro sempre irresistibile, e come l'autore che affronta tantissimi temi, compreso uno di cui si è molto parlato appunto in questi giorni, parlando anche male di Hollywood, cioè il sesso e l'amore, un tema che Marx affronta con sconsolata consapevolezza dei propri limiti, come dimostrano queste righe. Un giorno incontrai una splendida ragazza. Aveva gli occhi azzurri, i capelli rossi, la pelle bianca, le calze nere, ed era nell'età in cui ogni cosa è cresciuta nel posto giusto. Sembrava la vincitrice di un concorso di bellezza, terzo premio fra stuoli di rivali. Dopo un po' di conversazione preliminare e vari goffi convenevoli, ci demmo appuntamento per la sera. «Va bene alle 7:30?» chiesi. «A fagiolo», disse lei. Poiché la sirena di turno era d'accordo sulle 7:30, io arrivai puntuale, odoroso di lozione per uomo. Una lozione che la pubblicità garantiva capace, con una sola applicazione, di trasformare una donna di sasso in una tigre famelica. Niente male per $1.25. Ai miei tempi ho speso fino a $5 senza ottenere questo effetto. Brulicante di intenzioni immorali, ma esteriormente calmo, fui accolto da una sciamannata matrona carica d'anni e di cicce, avvolta in un vestito che doveva essere all'ultima moda durante la guerra boera. Si presentò subito come la mamma di Daisy, prova evidente che Daisy era una grulla. Una ragazza sveglia che punta al matrimonio, di solito ha l'accortezza di nascondere la sua maman prima di aver storto alla vittima designata una Buick e un anello di fidanzamento. Non so da dove venisse la mobiglia, ma un arredatore l'avrebbe definita tardo orrido. Tutti pezzi massicci, foderati di velluto imitazione, parzialmente celato da un cretonne a fiorami. Nessuno entrando si sarebbe stupito di vedere il generale Grant seduto in una delle poltrone. Siamo partiti con Sergio Romano e finiamo con un altro Romano, suo padre, e cioè Romano, che fu un manager e imprenditore di cui il figlio ripropone utilmente una testimonianza su Caporetto. I ragazzi di Caporetto è pubblicato da Nuova Argos, 158 pagine, 10 euro. All'epoca di Caporetto Romano Senior aveva 13 anni e qui nel libro appunto racconta l'impressione su un ragazzo così piccolo di un evento tanto drammatico come la guerra, in particolare la rotta di Caporetto, che lo portarono prima a Milano e poi a Firenze. Il libro, curato da Sergio Romano, è interessante anche per la documentazione, innanzitutto fotografica, di quei mesi, ma anche per la cronologia, molto utile. E due scritti di Romano figlio, Sergio: nel primo egli rilegge 100 anni dopo Caporetto, di cui nel frattempo sono passate delle interpretazioni diverse, spesso contrastanti, tanto da diventare, scrive Sergio Romano, materia di parabole. Nel secondo scritto invece Sergio Romano ci dà conto dei lavori della commissione d'inchiesta che fu istituita subito dopo la rotta di Caporetto. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato di America, di cinema e di grande guerra, allora parliamo di uno dei miti del cinema americano, Rin Tin Tin, che troviamo nel libro di Anna Lovatelli, illustrato da Cinzia Ghigliano, Io ti salverò, la storia dell'indimenticabile Rin Tin Tin, pubblicato da Orecchia Cerbo, 15,50 €, in cui troviamo un Rin Tin Tin cucciolo portato negli Stati Uniti dalla Francia, dove un giovane californiano si trova appunto per combattere nel 1918. Lì raccoglie il cagnolino, lo porta a Hollywood, allora i primi passi, e ne fa una star cambiandogli il nome, si chiamerà Rinti all'inizio, e questi diventerà poi il progenitore di tanti altri Rin Tin Tin, di cui uno, quello che la nostra generazione conosce bene, ne supererà perfino la fama. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Paolo Corleoni in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.